sotto borghi dentro la città. Un suono vibra, arriva fino a Radio One, alza il volume quando c'è brancato. Chiariti forte, niente programmato. Rock Revolution, la radio trema, la musica rivoluziona il sistema, la radio che suona i successi di un'era. Radio One, Rock Revolution, la città trema, la musica rivoluziona il sistema, la radio che suona i successi di un'era. Rock and roll, Sabu, Rock Revolution. Sgomito, la mia anima trema. Radio One, Rock Revolution. Rock Revolution. Rock Revolution. Radio One. Ben trovati a questa nuova puntata di Rock Revolution Story, la storia del rock raccontata alla radio su Radio One. Io sono Filippo Brancato e quest'oggi parleremo di uno dei gruppi più amati, più seguiti ancora oggi nella storia della musica rock. Parliamo dei Queen. Bene, loro sono, come anticipato, uno dei più importanti gruppi rock della storia della musica, molto popolari soprattutto negli anni 70 ed 80, e nonostante la morte del frontman Freddie Mercury il 24 novembre 1991, ancora oggi mantengono un grande seguito sia fra le vecchie che fra le nuove generazioni. Il loro nome equivale all'appellativo inglese per regina, quindi Queen, e si stima che il gruppo abbia venduto circa 300 milioni di dischi, di cui 32 milioni soltanto negli Stati Uniti, risultando quindi tra gli artisti di maggior successo commerciale della storia. Con le loro 1422 settimane nelle classifiche sono gli artisti di più lungo successo commerciale nel Regno Unito, superando leggende della musica come i Beatles o Elvis Presley. Nel 2001 la band è stata inoltre inclusa nella Rock and Roll of Fame, nel 2004 nella UK Music Hall of Fame e nello stesso anno il brano Bohemian Rhapsody è entrato nella Grammy Hall of Fame, seguito poi nel 2009 dai brani We Will Rock You e We Are The Champion. Inoltre, il complesso è l'unico nella storia ad essere stato ammesso per intero nella Songwriters Hall of Fame. Rock Revolution Story. Bene, parliamo quindi della storia dei Queen, come nascono. Bene, loro si formarono nel 1970, dopo che Freddie Mercury, in vero nome Farouk Bulsara, cantante e pianista del gruppo Soul Milk Sea, si era unito agli Smile, gruppo originario formato da Brian May, rimasti in due, quindi Brian May con Roger Taylor, dopo l'abbandono del cantante e bassista Tim Staffel. Subito dopo la sua entrata nel gruppo, Mercury propose immediatamente di cambiare il nome della band in Queen. Nel 1971, dopo aver provato nelle prime esibizioni alcuni bassisti, la band decise di assumere definitivamente John Deacon. Arriviamo all'estate del 1973, i Queen pubblicarono il loro primo album dall'omonimo titolo, per l'appunto Queen. L'uscita dell'album fu anticipata dalla pubblicazione del singolo Keep Yourself Alive, che però non fece mai comparsa nelle classifiche britanniche anche a causa della mancanza di promozione radiofonica, e anzi venne definito addirittura osceno dai critici della rivista Rolling Stone. Pensate un po', a distanza di anni dalla sua pubblicazione, Queen sarebbe poi stato considerato un ottimo album d'esordio. Il disco tra l'altro contiene anche Seven Seas of Rye, ma non si tratta della stessa versione conosciuta dalla maggior parte delle persone, quella cioè pubblicata come singolo l'anno dopo ed inclusa nel loro primo Greatest Hits, bensì di una versione strumentale molto particolare. Adesso invece ascoltiamo quella classica, Seven Seas of Rye. Ascoltato la fantastica Seven Seas of Rye dei Queen, di loro che stiamo parlando quest'oggi all'interno di Rock Revolution Story, ripercorrendo la biografia di questa band. Arriviamo al 1974, esattamente il mese di febbraio, e viene alla luce l'album Queen 2, il loro secondo album diviso in due, lato bianco White Side e lato nero Black Side, composti rispettivamente da Brian May e Freddie Mercury, con un contributo di Roger Taylor nel White Side. Quest'album è stato più volte considerato da parte della critica un concept incentrato sull'eterna lotta tra il bene ed il male. Il singolo estratto fu la versione cantata da Seven Seas of Rye, loro prima hit. Il 1974 in tutti i casi si rivelò comunque un anno più soddisfacente per la formazione inglese, soprattutto perché in ottobre riuscì a pubblicare Sheer Years Attack, il terzo album in studio, che era composto da una notevole varietà di stili musicali. Il singolo più famoso tratto da quest'album fu Killer Queen, che raggiunse la seconda posizione, anche stavolta solo in Gran Bretagna. Arriviamo poi al 1975, fu l'anno dell'affermazione dei Queen. Passarono molto tempo in sala di registrazione, in ben 6 studi di produzione con la guida del produttore Roy Thomas Baker, e decisero l'album A Night at the Opera, l'album più costoso dell'epoca. Il titolo è ispirato all'omonimo film dei fratelli Marx ed è uno dei loro album di maggior successo. Contiene una delle canzoni più celebri, Bohemian Rhapsody, scritta da Freddie Mercury, accompagnata da quello che è definito il primo videoclip della storia. Il brano rimase per ben 9 settimane consecutive al primo posto della classifica. Non possiamo non ascoltarlo immediatamente. I Queen, Bohemian Rhapsody. Radio 1. Escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Doesn't really matter to me. To me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on. As if nothing really matters. Too late, my time has come. Sent shivers down my spine, body's aching all the time. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. Just gotta get out. Rock Revolution Story su Radio One. Abbiamo ascoltato Bohemian Rhapsody su Radio One all'interno di Rock Revolution Story, la storia del rock raccontata alla radio, e quest'oggi parliamo ovviamente dei Queen. Ripercorrendo la loro biografia arriviamo al 1976. Bene, dopo aver ottenuto un certo successo di critica e pubblico, i Queen si esibirono in un concerto gratuito ad Hyde Park a Londra, dove si radunarono, pensate, circa 176.000 persone, un buon risultato per la band. In tale occasione furono tra l'altro presentati anche brani appartenenti al loro album successivo A Day at the Race, che all'epoca venne considerato non all'altezza del precedente, nonostante fosse di ottima qualità e contenesse brani molto apprezzati come la splendida Somebody to Love, in cui i Queen tentarono di rifare al genere gospel, il brano Tie Your Mother Down, che è un pezzo forte di tutti i loro futuri concerti. Il 1977 vide il nascere del movimento punk, ma i Queen seppero adeguarsi alla moda del movimento ancora una volta e resistere alla crisi del rock. In 2 mesi e mezzo registrarono News of the World, il loro 6° album, che si contraddistinse per sonorità più immediate, grezze, e fu il loro 2° successo negli Stati Uniti. L'album contiene le 2 hit da stadio, diciamo così, spesso suonate in occasione degli eventi sportivi che tutti conosciamo, We Are the Champion e We Will Rock You, rispettivamente scritte da Freddie Mercury e Brian May. L'anno successivo, 1978, lanciarono Jets con un party sopra le righe, come loro amano fare, lo stile Queen, diciamo così, nella fantastica città di New Orleans. L'album venne criticato sia dalla stampa sia da parte del pubblico per essere troppo pomposo e artefatto, gli stessi motivi che poi portarono molti altri invece ad osannarlo. Tra le sue canzoni più famose ci sono Fat Bottom Girl, un rock grezzo scritto da Brian May, Bicycle Race, un pezzo che prende in giro molti miti e luoghi comuni dell'epoca, ed accompagnato da un video che poi fu censurato, che presentava ragazze nude in bicicletta, sicuramente l'avrete visto, e poi ancora la bellissima Don't Stop Me Now, allegra cavalcata di pianoforte e voce, scritte entrambe da Freddie Mercury, che ascoltiamo subito. Quindi Queen, Don't Stop Me Now. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. 'Cause I'm having a good time. Don't stop me, yes, now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. Yeah. a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me try now. I'm having a good time. Don't stop me yes, now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Stiamo parlando dei Queen all'interno di Rock Revolution Story. Arriviamo al 1979, ripercorrendo la loro biografia, ed ecco l'uscita dell'album Live Killers, il loro primo album live. Negli anni seguenti tutti e quattro i membri della band si dichiararono non soddisfatti dal messaggio sonoro di questo disco. Nel 1980 compirono un'altra svolta stilistica pubblicando l'album The Game e affidandosi alle cure del produttore Mac, riuscirono a ripulire il loro stile dalla pomposità glam anni 70 e si lanciarono con suoni più asciutti e diretti negli anni 80. Quest'album segnò la comparsa per la prima volta su un album dei Queen dei sintetizzatori. The Game contiene alcuni dei singoli più venduti della band inglese. Parliamo di Crazy Little Thing Called Love di Freddie Mercury, Another One Bites the Dust di John Deacon ed ancora Save Me, la bellissima ballata di Brian May. The Game raggiunse per la prima volta il posto numero uno in classifica sia in Gran Bretagna che negli Stati Uniti. Nello stesso anno composero la colonna sonora del film Flash Gordon, anche se poi il film si rivelò in seguito un flop commerciale, la pellicola ebbe il merito comunque di accrescere ancora di più la già smisurata fama del quartetto. Ascoltiamo Crazy Little Thing Called Love. Arriviamo al 1981, anno che vide Queen impegnati in un altro tour mondiale che li portò in giro per il mondo, in Europa, negli Stati Uniti, in Giappone e per la prima volta in America Latina. Nello stesso anno uscì la prima raccolta ufficiale dei loro brani di maggior successo, Greatest Hits, che è tra i dischi più venduti dal quartetto secondo le ultime stime, 12 volte disco di platino. Al termine di questo tour, nel 1982, i Queen si dedicarono alla registrazione dell'album successivo Hot Space. Il disco risentì del successo dell'album precedente The Game e abbandonò le sonorità rock per essere influenzato da disco e funk. All'epoca venne considerato un tradimento dai fan della vecchia guardia, abituati all'hard rock della band inglese ed il loro peggiore album, pensate un po'. I brani furono registrati con una produzione diversa, tuttavia non mancano pezzi di stile classicamente hard rock e glam come Under Pressure, scritta e interpretata insieme a David Bowie, che ascoltiamo adesso. Pressure, pushing down on me, pressing down on you, no man has fallen. turned away from it all like a blind man. Sat on the fence, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Bellissima Under Pressure dei Queen, loro sempre attenti all'aspetto commerciale dei loro album e a causa del responso del pubblico non esaltante per Hot Space, nel 1983 sospesero le attività e si dedicarono a progetti solisti. A quella data risalgono le prime voci di un loro possibile scioglimento. Nel 1984 poi però ritornarono con un nuovo album, The Works, che contiene ben 4 singoli. La fantastica Radio Gaga, scritta da Roger Taylor ed è uno dei loro più celebri inni da stadio, poi resa celebre anche dal battimano nel video guidato da Freddie Mercury. Tra l'altro la canzone fu anche seguita dal gruppo durante il Festival di Sanremo nel febbraio dell'84 in playback per l'unica volta nella loro carriera, e questo ci giunge notizia causò anche liti interne poco prima dell'esibizione. Poi c'è anche la ballata It's a Hard Life, brano in parte ispirato all'opera I Pagliacci e cui videoclip era uno fra i preferiti di Freddie Mercury. Poi c'era Hammer to Fall e I Want to Break Free, canzone diventata un inno di libertà per i popoli sudamericani. Proprio quest'ultima avrebbe fatto nascere altre polemiche sui Queen. Il video che l'accompagna, su idea della ragazza di Roger Taylor, vede i quattro travestiti come le protagoniste di una popolare serie inglese dell'epoca e fu giudicato molto divertente dagli inglesi. Fu però risultò insomma di cattivo gusto negli Stati Uniti e bandito addirittura dalle televisioni. Proprio le scarse vendite, a dispetto del successo dei quattro singoli e la presenza di altri brani sperimentali e di qualità su The Works, furono motivo di altre tensioni nel gruppo. Dichiarazione di Brian May: disse, quando ci siamo travestiti per il video di I Want to Break Free in Inghilterra, tutti l'hanno presa come una cosa divertente, ma in America non l'hanno mandata giù e l'hanno considerata un grave affronto. Adesso ascoltiamo proprio la canzone di cui stiamo parlando, I Want to Break Free. I want to break free. God knows I want to break free. All'interno di Rock Revolution Story stiamo parlando quest'oggi dei Queen, stiamo ripercorrendo la loro biografia, arriviamo al 1985, anno che li vide protagonisti di due grandi eventi musicali. Il primo fu il 12 gennaio, furono ospiti principali del Rock in Rio, dove suonarono davanti a circa 300.000 persone. L'evento però che li consegnò alla storia fu il Live Aid, concerto umanitario organizzato da Bob Geldof e tenutosi il 13 luglio 1985, che vide la partecipazione di numerosi artisti. I Queen si esibirono a Wembley per una ventina di minuti, a detta della stampa e del pubblico ed anche degli altri musicisti presenti, per una volta tutti d'accordo, la loro interpretazione fu memorabile e addirittura una delle migliori di tutti i tempi, in particolare Radio Gaga, cantata da Freddie Mercury, che guidava il battimani dell'intero stadio, è rimasta nella storia. La partecipazione al Live Aid rivitalizzò i Queen, che pubblicarono il singolo Hard Rock One Vision. Yeah! Arriviamo a 1986 e uscì A Kind of Magic e le composizioni fanno parte della colonna sonora del film Highlander che tutti conosciamo. Il singolo A Kind of Magic arrivò primo in ben 35 nazioni e rilanciò in modo definitivo i Queen, che iniziarono il Magic Tour, il loro tour più grande e spettacolare. In 26 date raccolsero circa 1 milione di spettatori, di cui 400.000 solo in Gran Bretagna. Il concerto a Wembley Stadium fu uno dei più famosi e celebrati ancora oggi. Si aprì con la canzone One Vision e poi si concluse con l'inno inglese God Save the Queen. Il concerto durò più di 2 ore, pensate un po', fu una delle prime volte in cui Queen presentarono la canzone Who Wants to Live Forever. A Newburgh, il 9 agosto 1986, Freddie Mercury si esibì per l'ultima volta con i Queen in una delle sue prestazioni vocali più apprezzate. Ascoltiamo Who Wants to Live Forever. Subito dopo il Magic Tour, i Queen si presero una pausa di 3 anni. Freddie collaborò con il soprano Montserrat Caballé per registrare l'album Barcelona, la cui canzone omonima divenne 3 anni dopo l'inno dei Giochi Olimpici di Barcellona 1992. Nel 1989 i Queen ritornarono con l'album The Miracle, che contiene ben 5 singoli, tra cui la potente Want It All e la solare The Miracle, che li lanciò verso il disco di platino negli States. Per la prima volta ogni singolo brano fu accreditato all'intera band, anche se per la maggior parte delle volte le canzoni erano per lo più scritte da un solo componente. Dell'album fanno parte anche singoli come The Invisible Man, Breakthrough e Scandal. L'assenza di un tour e la sempre più rara apparizione di Freddie Mercury in pubblico alimentarono le speculazioni della stampa sulla salute del cantante. Freddie si limitò a dire che la decisione di non compiere un tour era dovuta soltanto a lui, oltre che alla voglia di rompere il ciclo album tour degli anni passati. Dichiarazione di Brian May: non penso che dimenticheremo mai il giorno che Freddie ci disse della malattia. Ce ne andammo via da qualche parte con la morte nel cuore. Ascoltiamo I Want It All. Just an alley creeper, light on his feet. A young fighter screaming, with no time for doubt. With the pain and anger, can't see a way out. It ain't much I'm asking, I heard him say. Gotta find me a future, move out of my way. I want it all. Dopo l'annuncio tragico di Freddie Mercury, arriviamo al 1991. Le voci su di lui, malato di AIDS, divennero sempre più insistenti sui quotidiani scandalistici, ma furono negate con altrettanta determinazione dal cantante, da sempre in lotta con la stampa per proteggere la propria privacy. Nello stesso anno uscì l'album Innuendo, uno dei migliori lavori a detta del pubblico e della critica. L'omonima canzone è una piccola opera rock di 6 minuti. Il video di supporto al singolo consentì ai Queen di battere la loro stessa storia, ovvero superare in lunghezza quello di Bohemian Rhapsody. Tutto l'album risentì di un clima triste per l'aggravarsi della malattia di Freddie Mercury, ovviamente. Tra gli altri brani sono citati anche Headlong, potente hard rock, I'm Gonna Slide Man, brano surreale volutamente ironico, la drammatica ed epica The Show Must Go On ed un'impressionante e fantastica These Days Are Days of Our Lives, un ricordo dei tempi passati, in cui nel video Freddie Mercury comparve pubblicamente per l'ultima volta. Casualmente, ma significativamente, le ultime parole del brano che adesso andiamo ad ascoltare, I Still Love You, vi amo ancora, sembrano voler rappresentare quasi l'ultimo saluto del cantante ai suoi fan. Il 24 novembre 1991 muore Freddie Mercury. Sometimes I get to feel I was back in the old days. Long ago, when we were kids, when we were young, things seemed so perfect, you know. The days were endless, we were crazy, we were young. The sun was always shining, we just lived for fun. Sometimes it seems like lately, I just don't know. The rest of my life's been just a show. Adesso al 20 aprile 1992, stiamo parlando dei Queen su Radio 1 all'interno di Rock Revolution Story. anno in cui si svolse a Wembley il Freddie Mercury Tribute, il concerto in ricordo del cantante. Insieme ai tre componenti superstiti del gruppo, si alternarono sul palco altri artisti di spessore come Metallica, Guns N' Roses, David Bowie, Roger Daltrey, Robert Plant, George Michael, Elton John e anche Liza Minnelli. Molti altri ovviamente non li cito adesso, ma parteciparono, che eseguirono anche brani dei Queen. Il concerto, oltre che per l'eccezionalità dell'evento musicale, si segnalò per aver richiamato il mondo sul dramma dell'AIDS. Il giudizio della critica dal punto di vista squisitamente musicale fu impietoso. Le tracce dei Queen, cantate da altri cantanti, misero in mostra, se mai ce ne fosse stato bisogno, l'inadeguatezza di questi nei confronti della voce e dell'interpretazione inimitabile di Freddie Mercury. Il solo George Michael sembrò cavarsela abbastanza bene con la fantastica Somebody to Love, che ascoltiamo adesso. Yeah. Abbiamo ascoltato Queen e George Michael con Somebody to Love, fantastica interpretazione registrata Live Aid. Adesso arriviamo al 1995, anno in cui uscì Made in Heaven con le ultime registrazioni inedite di Freddie Mercury, che riportò i Queen ai primi posti delle classifiche di vendita. Il disco contiene vecchie tracce rielaborate non pubblicate negli album precedenti, come My Life Has Been Saved e le ultime tracce vocali di Freddie Mercury registrate prima di morire, come Winter's Tale e la ballata Too Much Love Will Kill You e anche la bellissima Mother's Love. Quest'ultima sembra che sia l'ultima traccia vocale registrata da Freddie Mercury. Due anni dopo, nel 1997, fu pubblicato Quit Rocks, una compilation che raccoglie le canzoni più dure della band, tra cui Stone Cold Crazy, One Vision, Hammer to Fall e I Want It All. Inoltre c'era una complessa revisione di I Can Live With You e No One But You, brano inedito suonato dai tre rimanenti membri della band, con l'alternarsi alla voce di Brian May e Roger Taylor in memoria di Freddie Mercury e poi successivamente di Lady Diana, scomparsa proprio in quell'anno. Altri due anni dopo, il 1999, uscì il Greatest Hits 3, una raccolta giudicata alla critica per mantenere alto il nome dei Queen. Ascoltiamo adesso Made in Heaven. Written in the stars. Nonostante la scomparsa di Freddie Mercury, leader indiscusso e simbolo della band, la musica dei Queen è riuscita a sopravvivere al cantante, continuando a riscuotere successo anche negli anni seguenti e continuando ancora a riscuotere un grande successo fra i fan delle nuove generazioni. Tra le partecipazioni live più significative dei Queen in giro per il mondo, ricordiamo nel 2002 al Party at the Palace a Londra, nel 2003 furono invece ospitati al Pavarotti in France, dove hanno suonato la fantastica We Will Rock You, cantata da Brian May, Radio Gaga, cantata da Roger Taylor, Too Much Love Will Kill You, in duetto fra Brian May e Luciano Pavarotti, che cantava la stessa canzone con strofe in italiano, e poi l'intramontabile We Are The Champion, cantata da Zucchero. Prova del continuo affetto dei fan è il tour mondiale sostenuto dal 2005 al 2006 da Brian May e Roger Taylor, che ha riscosso un enorme successo in Europa e negli Stati Uniti. Ricordiamo che Roger Taylor fu poi la prima voce che prese il posto, anche se non è corretto dire in questo modo, di Freddie Mercury. Ascoltiamo la fantastica canzone Too Much Love Will Kill You, registrata appunto in occasione del Pavarotti in France del 2003. I'm just the pieces of the man I used to be. Too many bitter tears are raining down on me. I'm far away from home, and I've been facing this alone for much too long. Oh. Io sento che qualcuno non mi ha detto mai su come poi si cresce a vivere. Nella mente mia confusa guardo indietro per capire dove sbagliai. Oh, oh, oh. Too much love will kill you if you can't make up your mind. Torn between the lover and the love you leave behind. You're headed for disaster, 'cause you never read the signs. Too much love will kill you every time. Non sono l'ombra di quell'uomo che ero io, e sembra che portavo il sole, adesso quel che faccio butto giù. Oh, oh, oh. How would it be if you were standing in my shoes? Can't you see it's impossible to choose? No, there's no making sense of it. Everywhere I go, I have to move. Al fianco del chitarrista e del batterista vi è stato l'ex cantante dei Free, Bad Company, per l'appunto di cui abbiamo parlato prima, Paul Rogers. Per scelta dei due membri della band, il tour è sempre stato annunciato come Queen più Paul Rogers, per specificare come non si trattasse di un cambio di formazione ma di un'aggiunta occasionale alla band originale, dovuta appunto alla necessità di avere un cantante. Precedentemente, infatti, molti fan avevano espresso il loro malcontento per un'eventuale nuova formazione della band storica, ma i rimanenti Queen non hanno mai cercato un nuovo cantante, in realtà, nonostante l'ammirazione di molti artisti come la pop star Robbie Williams, che nel 2004 aveva addirittura dichiarato: mi sarebbe piaciuto prendere il posto di Freddie Mercury nei Queen. Da questo, come altri progetti della band senza Freddie Mercury, il bassista John Deacon si è sempre dissociato, pur riferendo la propria non ostilità verso tale operazione. La sua ultima apparizione con il resto della band risale al gennaio del 97 al Ballet for Life Music by Queen and Mozart, tenutosi a Parigi. In questa occasione fu eseguita dal vivo The Show Must Go On insieme ad Elton John. Fu uno spettacolo indescrivibile. Ora John Deacon, ci giunge notizia, vive in Inghilterra con la sua famiglia e lavora come piccolo imprenditore. Ci fa piacere. Così nella primavera poi del 2005 i Queen più Paul Rogers partono per una tournée che toccherà anche quattro città italiane: Roma, Milano, Firenze e Pesaro. Il 19 settembre dello stesso anno il tour europeo dei Queen più Paul Rogers ha dato vita al CD Live Return of the Champions, e dopo meno di un anno, il 15 agosto 2006, Brian May ha annunciato il ritorno dei Queen con la registrazione di un nuovo album in studio dopo 12 anni di silenzio discografico. La nuova formazione comprende May, Taylor e Paul Rogers. Ascoltiamo Cosmos Rocking. Let's rock this joint. We got the whole house rocking. We got the whole house rocking. We got the whole house rocking. We got the whole house rocking. We got the whole house rocking to the mighty power of rock and roll. We dance out of the door, dance into the street, and all the people are swaying to the musical beat. We rock down the road and down to the town, and the people stare and smile. Rock this town. We got the whole town rocking. Cosmos Rocking the Queen più Paul Rogers. Arriviamo, ripercorrendo la loro biografia, al marzo 2008, anno in cui è stato annunciato da parte del gruppo sia il lancio del nuovo album The Cosmos Rocks sia il nuovo tour. Nel novembre del 2009 invece uscì una nuova raccolta dei brani dei Queen chiamata Absolute Greatest, che raggiunse la terza posizione della classifica britannica. La raccolta venne preceduta e seguita da una serie di quattro cofanetti, The Singles Collection, contenenti le versioni rimasterizzate dei singoli pubblicati dalla band nel corso della loro carriera. Dal 30 giugno il duo ha ricominciato, dello stesso anno ovviamente, a collaborare poi con Adam Lambert. La band ha riscosso negli ultimi anni un grandissimo successo di pubblico ed ha avuto una forte influenza sulle generazioni che l'hanno seguita e sui musicisti che ad essa si sono ispirati. Ognuno dei componenti era in grado di occuparsi della parte compositiva, ma era poi Freddie Mercury il personaggio più noto del gruppo, sia per via del ruolo di leader, sia per le proprie straordinarie capacità vocali. Pensate che con un'estensione pari a 3 ottave riusciva a fare canzoni meravigliose senza l'uso del falsetto. Altra caratteristica che li ha resi celebri erano le loro esibizioni dal vivo. Dal 1970 all'86 hanno sostenuto 707 concerti, in 26 nazioni, toccando tutti e 5 i continenti. Alla band è stato spesso attribuito nel corso degli anni il titolo di miglior live band della storia e la loro esibizione a Live Aid è stata votata da un vasto numero di critici non solo come la migliore dell'evento, ma una delle migliori band ed esibizioni in assoluto nella storia della musica. Con questa canzone abbiamo chiuso questa puntata di Rock Revolution Story. Vi do appuntamento la prossima settimana per scoprire, riscoprire, conoscere eventualmente anche una nuova band storica della musica del rock. Vi ringrazio per l'ascolto e quindi alla prossima settimana. Bye bye. Nei sottoborghi dentro la città un suono vibra, arriva fino a Radio One. Alza il volume quando c'è brancato.